Grazie mille, un applauso a Donofrio. Lui sta servendo come runner per la prima volta. Un altro applauso. Ti avevo detto che l'avrei fatto. Siamo così grati per ogni volontario che è qui da stamattina e che con il suo servizio rende possibile, no, tutto quello che stiamo vivendo, ed è una grandissima benedizione. Noi come stiamo? Fatemi un ok perché non vedo le facce. Ok, benissimo. Un saluto a voi in sala, ma anche un caro saluto a chi ci sta seguendo da casa. Vi vogliamo bene. Io vi chiedo, se hai un'aspettativa per questo incontro, ti chiedo di alzarla, perché Dio è fedele, perché Dio è buono e perché Lui vuole rivelarsi ancora di più ad ognuno di noi. Amen? Ed è solo Lui che può rendere la nostra vita ordinaria, mediocre, supernaturale, straordinaria, che profuma di eternità. Lo vogliamo? Benissimo, e tutto questo lo possiamo prendere dalla sua parola, da quello che Dio ci ha lasciato per iscritto, in modo tale che possiamo conoscerlo ed essere trasformati dalla sua presenza nella sua vita. Quindi questo è quello che succederà, sono convinta, oggi. Sta già succedendo in realtà, ma si intensificherà sempre di più nel nome di Gesù. Bene, per chi mi conosce bene, ma anche in realtà per chi non mi conosce poi così tanto bene, sa che io ho un rapporto conflittuale nel ricordare i nomi, con i nomi, proprio non me li ricordo. Nonostante io abbia una memoria discreta, il mio cervello sembra veramente incapace di creare quella connessione che ci dovrebbe essere tra il volto di una persona e il suo nome. Cioè proprio si perde il cervello in questo passaggio. E quindi questo, diciamo, mi porta a trovarmi in situazioni abbastanza imbarazzanti. Mi porta a fare diverse gaffe. Era forse qualche mese fa, stavo facendo lezione, io insegno inglese in una scuola primaria, stavo facendo lezione e stavo cercando animatamente, ecco, di richiamare l'attenzione di uno dei miei più cari alunni che dell'inglese non gli importa niente. Penso anche che non sarà mai interessato nella sua vita proprio all'inglese. E quindi le mie lezioni per lui sono, diciamo, del tempo libero per fare altro, quindi ero lì che richiamavo la sua attenzione. Salvatore, Salvatore, non si girava, cioè, ho fatto il vocione, Salvatore, è che quando ti chiamo, e per cortesia girati almeno un attimo. Lui mi risponde, dice: maestra, io non ti rispondo perché mi chiamo Samuele. E la cosa bella è stato che questo bambino si è fatto trovare in queste condizioni 2 giorni dopo. Aveva scritto il suo nome su questo foglio di carta che si era appiccicato al naso perché voleva fare il simpatico, voleva assicurarsi, diciamo, che io da quel momento in poi l'avrei chiamato con il nome giusto. Un'altra volta eravamo qui in chiesa e avevamo appena vissuto, stavamo vivendo proprio un incontro bellissimo quanto quello che stiamo vivendo oggi. E sapete, vi ricordate quando alla fine della predicazione c'era la possibilità di invitare la chiesa a rispondere ad un appello, a venire qui a ricevere preghiera? Bellissimo, è vero, ce lo ricordiamo. Ritornerà quel momento. E insomma, venne questa signora, rispose all'appello, la chiameremo signora Maria perché non mi ricordo il suo nome, e durante tutta la preghiera proprio io ho pregato intensamente per questa signora Maria, per questa sorella Maria. Gesù, tu conosci Maria ed è preziosa per te e tu conosci il suo nome. Alla fine della preghiera la signora Maria mi dice: non mi meno male che il Signore conosce il mio nome, perché io non mi chiamo Maria. Quindi, ecco, queste sono le gaffe che un po' mi succedono. E quello che ti voglio dire è che se dovessi sbagliare il tuo nome, non te la prendere. Mm? Ti sto avvisando già adesso. Perdonami già e cerca di amarmi lo stesso. Sì? Ok? Benissimo, benissimo. Io mi fido perché non si vede molto. Comunque, perché vi sto parlando di queste storielle, no? Che girano attorno il nome? Perché in questa settimana, preparandomi per questo messaggio, una settimana molto intensa, mi sono ritrovata a riflettere e a meditare sull'importanza del nome. E quindi ho riflettuto sul fatto che il nome, no, di una persona non è semplicemente una serie di lettere, no, una successione di sillabe, ma inevitabilmente a quel nome è legato tutto il background, tutta l'identità, tutto il carattere che quella persona che porta quel nome ha. Mi spiego. Se pronunciassi il nome, non so, di tuo figlio o di tua figlia, nella tua mente si presenterebbero tutti dei pensieri belli o meno belli riguardanti tua figlia, perché ho pronunciato il suo nome. Se pronunciassi il nome del tuo datore di lavoro, che non ti paga da 3 mesi, tutta una serie di altri pensieri, no? Si presenterebbero nella nostra mente. Perché? Perché a quel nome è ovvio che associamo tutto quello che ha a che vedere con la persona. Io mi chiamo Noemi, per chi non mi conosce, mi chiamo Noemi, ma il mio nome non è solo un insieme di 5 lettere, ma il mio nome rappresenta, al mio nome è legato il mio carattere, il mio modo di parlare, le mie debolezze, i miei difetti, la mia storia o quello che magari vorrò vedere accadere nella mia vita. Tutto questo è racchiuso nel mio nome. Il mio nome vi parla della mia identità. E sapete, la stessa cosa vale per il nome di Gesù. Il nome più bello, il nome più alto, il nome più potente che esista e che mai esisterà. E io è proprio di questo nome che voglio parlarvi oggi. E sapete perché? Perché la Bibbia ci insegna a pregare come? A pregare nel nome di? E quindi questo nome deve racchiudere qualcosa di veramente potente, di veramente efficace. E io mi sono ritrovata nella mia vita di preghiera, poi non lo so, forse succede anche a voi, a pregare e a usare questa dicitura nel nome di Gesù in una maniera piuttosto meccanica, senza dare effettivamente valore a quelle parole che io pronuncio in quel momento, magari in una maniera religiosa, perché l'ho sentito sempre fare, o magari ho letto nella parola che si fa, e quindi concludo la mia bella preghiera con questa conclusione, nel nome di Gesù, come se fosse solo quello. Ma oggi, attraverso la parola, vedremo, io vorrei che ognuno di noi ricevesse una rivelazione, l'inizio di una rivelazione profonda di quello che significa pronunciare il nome di Gesù sulle circostanze che noi viviamo, su quello che significa pregare nel nome di Gesù. Lo vogliamo fare? Sì, vi sembra una bella idea? E io credo che questo possa cambiare totalmente la nostra vita di preghiera e possa cambiare totalmente il nostro essere chiesa. E, per capire meglio il perché la Bibbia ci dice di pregare nel nome di Gesù, forse ci serve fare un passo indietro e ci serve comprendere, capire come la Bibbia intende il nome, ok? Che cosa si nasconde dietro il nome? Ed è evidente sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento che al nome è sempre stato associato qualcosa di chi portava quel nome. Al nome è sempre stata associata l'identità della persona che portava quel nome, è sempre stata associata la sua forse missione della persona, no? Che portava questo nome. Se pensiamo a Genesi, no? C'è Dio che dice ad Abramo: tu non ti chiamerai più Abramo, ma ti chiamerai Abrahamo, perché io ti costituisco padre di moltitudini. Vediamo come il nuovo nome racchiude la nuova identità di Abramo, nonché la sua missione, no? La missione che Dio stava dando al suo servo. E lo stesso è successo per Sara, sua moglie, ma se pensiamo a Giacobbe, che poi è stato chiamato Israele. Passiamo nel Nuovo Testamento. Ricordiamo uno dei discepoli di Gesù, Simon Pietro, che noi poi adesso conosciamo come Pietro, ma stava parlando con Gesù e Gesù dice al suo discepolo: tu sei Pietro, e su questa pietra io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades, le porte del male, le porte dell'inferno non potranno prevaricare sulla chiesa. Noi siamo quella chiesa, c'è chiaro? Su di noi non c'è nessun male che può prevaricare, su di noi non c'è nessun male che può vincere. E quindi in questo nuovo nome che Gesù dà al suo discepolo c'è tutta la nuova identità che quel discepolo ha ricevuto da Gesù, c'è tutta la missione che Gesù stava dando a quel discepolo. E poi c'è il nome di Dio. Adesso si fa un attimino più interessante la situazione. Ok, c'è il nome di Dio. La Bibbia dà a Dio, cioè nella Bibbia possiamo leggere centinaia e centinaia di nomi di Dio, e ognuno di questi nomi propri rappresenta, ci fa conoscere una sfumatura del carattere di Dio. Una sfumatura della sua persona, una sfumatura della sua essenza. È chiaro che il Signore, che Dio doveva aver, non bisogno, però che a Dio si sarebbero dovute dare centinaia di nomi, perché Dio è troppo grande. E quindi per spiegare, capire, articolare ognuna di queste sfumature del suo carattere, ecco che la Bibbia ci presenta tanti nomi. Per farvi giusto un esempio, Elohim significa creatore, Dio creatore. El Shaddai, Dio onnipotente. Jehovah Jireh, colui che provvede. Jehovah Rapha, il Signore che guarisce. Vedete come dietro ognuno di questi nomi di Dio c'è una particolare sfumatura della sua essenza e della sua potenza. Questo è il nostro Dio. Quando noi pensiamo a Dio, dobbiamo pensare a tutto questo, a tutto quello che Lui è. E poi c'è Dio in Esodo, che sta parlando al suo servo Mosè e lo sta mandando, no, a liberare il popolo di Israele. E Mosè dice: ok, io vado, ma quando mi chiederanno chi mi manda, che devo dire? E Dio dice, si presenta, dà a se stesso un nome e dice, come dice? Io sono colui che sono, Yahweh. Io sono colui che sono. Pensiamoci un attimo. Il suo nome, Dio, si dà un nome che vuole sottolineare, che vuole portare la nostra attenzione, che vuole portare l'adorazione del nostro cuore a tutto quello che Lui è. Tutti quei 300 nomi che la Bibbia dà a Dio, si potrebbe dire che sono tutti incapsulati in quest'unico nome, Yahweh. Io sono Dio, l'io sono, colui che è l'inizio e colui che è la fine, colui che guarisce, colui che provvede, colui che è santo, colui che è sovrano. Ricordiamo l'Altissimo, l'Eterno, tutti i nomi del nostro Dio tutti racchiusi nella sua presentazione. Mi chiamo Io Sono. Il mio nome, Dio dice, rappresenta tutto, tutta l'immensità di chi io sono. Come se Dio volesse spingerci a concentrarci, quando leggiamo il nome Dio, a concentrarci su tutto quello che quel nome rappresenta, la sua natura, la sua essenza, la sua sovranità. Questo è il nostro Dio, questo è il mio e il tuo Dio. Amen? E poi questo Dio, l'Io Sono, Yahweh, si è fatto carne ed è venuto su questa terra. È venuto in forma d'uomo e a quell'uomo è stato dato il nome di Gesù, il Salvatore. Questo vuol dire che tutto quello che vale per l'Io Sono, che tutto quello che l'Io Sono è, vale anche per Gesù. Yahweh è l'Eterno, Gesù è l'Eterno. Yahweh è colui che provvede, Gesù è colui che conosce il tuo bisogno e quello della tua famiglia e vuole provvedere. Yahweh è colui che guarisce, l'abbiamo letto, Geova Rafa. Gesù è colui nel quale possiamo ricevere guarigione. Questo è il nostro Gesù. Ecco che non possiamo che pregare nel suo nome, perché è Dio. Perché? Che cosa significa pregare nel nome di Gesù? Il numero uno significa pregare alla luce di chi Gesù è, Dio. In Filippesi, al capitolo 2, c'è Paolo che proprio descrive in maniera così bella tutto quello che Gesù è venuto a fare su questa terra. E dice, Dio si è fatto in forma d'uomo, si è spogliato del suo essere del suo essere celeste e si è messo in un corpo d'uomo. Perché? Affinché io e te oggi potessimo avere una relazione con Dio, con il Padre. Gesù è venuto affinché, nonostante la nostra disubbidienza, il nostro peccato, la nostra autonomia, noi oggi potessimo pregare, potessimo rivolgerci a Dio nel nome di Gesù. Perché è quel nome che ha reso possibile la relazione con Dio. È grazie a quello che Gesù è e che Gesù ha fatto che noi possiamo accedere alla presenza di Dio, che noi possiamo cantare, che noi possiamo pregare, che noi possiamo vivere Dio nella nostra vita. Ecco che preghiamo nel nome di Gesù. Perché se pregassi nel mio nome, non sarebbe possibile pregare nel mio nome. Perché io, in quanto Noemi, non sono neanche degna di alzare il mio sguardo verso Dio. Ma posso alzare il mio sguardo verso Dio grazie a quello che Gesù è, grazie a quello che Gesù ha fatto. Ecco che io prego nel nome di Gesù. Quando io prego, dico in altre parole, quando prego nel nome di Gesù, dico, Dio, ascoltami, io non vengo nel mio nome. Perché io lo so che non sono altro che una peccatrice, io lo so che sono disubbidiente, io lo so che non sono degna della tua presenza, ma vengo davanti a te alla luce di chi Gesù è, alla luce di quello che Gesù ha fatto. Ecco che io prego nel nome di Gesù, perché è in quel nome che oggi posso avere una relazione con Dio. Amen? Amen? Quindi che significa pregare nel nome di Gesù? Non è la conclusione della preghiera, non è la formuletta magica che diciamo alla fine, ma è un pregare ricordandoci che è per quello che Gesù ha fatto, che è per quello che Gesù è. Pregare alla luce di chi Gesù è. Sì? Quindi questo è il numero uno. Cosa significa pregare nel nome di Gesù? Pregare alla luce di chi Gesù è. Numero due. Cosa significa pregare nel nome di Gesù? Vuol dire pregare in accordo con la volontà di Gesù, in accordo con la sua volontà. Ora io non so voi, ma io spesso e volentieri uso, diciamo, la preghiera come una tecnica di convincimento, quasi manipolazione. L'ho detto che sono una peccatrice. E lo so, lo facciamo, lo sappiamo, no? Possiamo fare tutte le preghiere belle, articolate, nel nome di Gesù a destra e a sinistra, però nel cuore che cosa vogliamo? Vogliamo convincere l'io sono a fare quello che dico io, perché io lo so meglio. Allora, se è questo il cuore della nostra preghiera, della nostra relazione con Gesù, possiamo dire nel nome di Gesù quante volte vogliamo, perché ripeto, non è la formuletta magica, ma quella preghiera non onorerà Dio. E Gesù può anche ascoltarla, ma solo per farci rendere conto che c'è qualcosa che non va nel nostro cuore, di certo non per rispondere o esaudire quella preghiera. Perché pregare nel nome di Gesù vuol dire che io prego in accordo con quello che Lui vuole, in accordo con la sua volontà. In Giovanni 14 c'è scritto, Gesù parla ai discepoli, no? E dice, quello che chiederete nel mio nome, io lo farò. Quello che chiederete in che? Nel mio nome, nel nome di Gesù, io lo farò. Affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Poi Gesù lo dice da capo, ancora i discepoli non avevano capito bene bene. Dice, se chiedete, se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Dobbiamo solo ricordarci le parole che Gesù ha detto poco prima di queste. E Gesù poco prima ha pregato di avere intimità con Lui. Ha pregato, ha insegnato, scusate, ai discepoli dicendo dimorate in me, abitate con me, io dimorerò in voi, io vivrò nei vostri cuori. Le mie parole, dice Gesù, devono dimorare in voi. Io sono la vite, voi siete i tralci. Voi senza di me, dice Gesù e lo dice ad ognuno di noi, non potete fare niente. E dopo, dice, chiederete qualsiasi cosa nel mio nome e io la farò. Perché? Perché se io ho questa intensa e intima e costante relazione vera con Gesù, automaticamente le mie preghiere saranno il frutto di quella relazione. Mi spiego? Automaticamente le mie preghiere saranno secondo il cuore di Gesù. Perché? Perché ho imparato a conoscerlo, perché lo so che cosa Lui vuole, perché so chi Lui è. È un po' come se voi che mi conoscete sapete che mi potete chiedere determinate cose e io le farò, perché mi conoscete. Noemi, mi dai una lezione di inglese? Io lo posso fare, la pubblicità. No, non è pubblicità. Per piacere non me le chiedete. Perché lo posso fare? Perché sono un insegnante. Ma se mi chiedeste, Noemi, per piacere, cucinami una cena da 5 stelle Michelin. Ma neanche una pizzella. Perché non so cucinare. Va bene? Ecco che, se mi conoscete, chiedete anche le cose giuste, in modo tale da poterle ricevere. La stessa cosa vale per la nostra relazione con Gesù. Chiederete qualsiasi cosa nel mio nome, vuol dire chiederete qualsiasi cosa in accordo alla mia volontà, in accordo con chi sono, e le riceverete. Amen? Amen? Sì, chiesa, questo significa pregare nel nome di Gesù, non abracadabra. Che posso chiedere qualunque cosa, ci metto il nome di Gesù e succede. No, non funziona così. Terzo, e dopo di questo pregheremo, ok? Metteremo in pratica tutto questo. Che cosa significa pregare nel nome di Gesù? Vuol dire che prego secondo la sua autorità. Prego nell'autorità, non mia, perché non ce l'ho, ma di Gesù. Che significa questa parola difficile? Autorità. È un po' come quando ci presentiamo da qualche parte e diciamo, mi manda, che vuol dire che vengo? Nell'autorità di chi mi ha mandato. Quando ero piccolina, io ho due fratelli, Walter e Gabriele, ma io sono la grande. E niente, succedeva che papà e mamma avevano delle riunioni in chiesa, quindi qualche volta succedeva che ci lasciavano sole a casa. E papà spesso e volentieri si ritrovava a dire ai miei due fratelli, che erano pestiferi, Noemi è la grande, Noemi ha la responsabilità vostra, qualsiasi cosa Noemi vi dirà, mentre io e mamma non ci siamo, è come se ve la dicessi io. E quindi io sapevo che in quella mezz'ora e 45 minuti tutto quello che avrei detto avrebbe avuto, ecco, un peso diverso. E di conseguenza, teoricamente, anche un effetto diverso. Perché? Perché papà, che ha un'autorità maggiore su Walter e Gabriele di quanto ce la potesse avere io, mi aveva dato il permesso di parlare al posto suo. La sua autorità era passata a me. Questo significa pregare nel nome di Gesù, pregare secondo l'autorità che Gesù ha dato ad ognuno di noi. Vuol dire che io non prego per chi sono io, Noemi, ma io prego perché sono figlia di Dio, perché sono ripiena dello Spirito Santo e perché io ho ricevuto il permesso da parte di Gesù di dire al male di andare via, di dire al peccato che non ha nessun potere, di dire a qualsiasi forma di male che io non le appartengo, perché è come se lo dicesse Gesù in persona. Permettetemi di dire questo. Questo significa pregare nel nome di Gesù. Vuol dire che noi non siamo vittima di niente e di nessuno, ma abbiamo autorità di pregare affinché le cose possano cambiare. In Marco al capitolo 16 c'è Gesù che è stato già resuscitato dalla morte, sta per ascendere al Padre e dice ai discepoli quello che li avrebbe aspettato, no? Avrebbe aspettato loro, quello che dovevano fare. E quando gli dà il mandato, no? Che poi abbiamo tutti noi, no? Andate e predicate il Vangelo. E in Marco c'è scritto questo. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome, dice Gesù, nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti e anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male. Nel mio nome imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. Amen. Questo vuol dire pregare nell'autorità che Gesù ha dato alla sua chiesa. Questo vuol dire, Gesù parla di demoni, anche loro sono sottomessi all'autorità di Gesù. E questo non ci deve spaventare, non ci deve far prendere dal timore, perché non è nelle nostre forze che preghiamo a nessuna forma di male, a nessun demone di andare via, ma è nella forza e nella vittoria che Gesù ha già avuto. Le mie parole pesano della vittoria che Gesù ha già conquistato. Amen? Questo è Chiesa, quello che noi possiamo fare nel nome di Gesù. E certo, qui Gesù dice scacceranno i demoni come forma di male, ma è una forma di male. Ci sono tante forme di male. Un pensiero. Quel pensiero che ti svegli la mattina e porta tristezza nel tuo cuore. E poi scaturisce tutta una serie di altri pensieri che ti rubano la gioia. Quella è una forma di male. E non è nella volontà di Dio. E tu e io possiamo prendere autorità su quel pensiero affinché possa essere scacciato nel nome di Gesù. E questo vale per sentimenti di ansia, per sentimenti di paura, per depressione. Noi non dobbiamo convivere con queste forme di male, le dobbiamo riconoscere per quelle che sono e dobbiamo prendere autorità, non nostra, di papà, di Gesù, che ci ha detto puoi scacciare queste cose. Dobbiamo imparare a dire, chiesa, anima mia, gioisci nel nome di Gesù, forma di tristezza, vai via. Questa depressione, io non la voglio, non mi appartiene, nel nome di Gesù sono libero. E non è un autoconvincimento. Non è. Vabbè, dico così, vediamo. No. Questo vuol dire pregare come Dio ci ha insegnato. Questo vuol dire vivere, essere rivestiti dell'autorità che Dio ci ha dato, e noi faremo questo mentre il gruppo può entrare. Noi incominceremo proprio a pregare per ogni forma di male che ci rendiamo conto e si trova nella nostra vita, per ogni forma di male con la quale per una qualche ragione ad un certo punto abbiamo incominciato a convivere. No, la Chiesa non è vittima. Non è mai stata, perché il capo della Chiesa è Cristo ed è nel nome suo che possiamo vincere. Amen? Una forma di male sono le infermità fisiche. C'è scritto, imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno, ed è vero. Perché poi vediamo questa cosa succedere in Atti e oltre. Ma in Atti 3 c'è Pietro, che aveva sentito queste parole non tantissimo tempo prima, ma che era stato ripieno dello Spirito Santo, e dice davanti a uno zoppo che era nato così, che chiedeva l'elemosina, non ci sperava manco più di essere guarito, non chiedeva guarigione, chiedeva l'elemosina. E Pietro dice, io non ho né oro e né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Cristo Gesù il Nazareno, alzati e cammina. E quello zoppo, chiesa mia amata, si è alzato e ha camminato. Perché è questa l'autorità che noi abbiamo in Cristo. Perché significa vedere questi miracoli, queste liberazioni, queste nuove vite, se preghiamo con fede nel nome di Gesù. Questo significa, e noi vivremo un momento che pregheremo, tu pregherai per te, per le tue forme di male, che sia un peccato, che sia una dipendenza, che sia un'oppressione, che sia una malattia fisica, che sia un pensiero, tu pregherai per te e tu pregherai nell'autorità che Gesù ti ha dato. La differenza tra il vivere questo momento che avremo come un momento di conclusione, no? Dell'incontro, come un momento religioso, e vivere invece un momento che può portare liberazione, che può portare guarigione, che può cambiare la tua vita totalmente, la differenza la fa se ci credi. Pietro ha detto, io quello che ho ti do, nel nome di Gesù alzati e cammina. Pietro aveva la fede, la consapevolezza che Gesù avrebbe operato, perché ha pregato nell'autorità che Gesù gli aveva dato. Ci credi? Ci crediamo? Io sì, non è nella preghiera del pastore, non, Ed è buono chiedere preghiera, è buono creare alleanze, ma è altrettanto buono che la Chiesa di Cristo si renda conto dell'autorità che ha nel nome di Gesù. Tutti quelli che credono saranno accompagnati da questi segni. Ci credi? Ci credi? Qual è la tua forma di male? Che cosa c'è nella tua vita che ti opprime? Qual è quel pensiero che ti opprime, che è una forma di male? Qual è la tua malattia? Qual è il tuo peccato? Puoi pregare nell'autorità che Gesù ti ha dato. Puoi pregare alla luce di chi Gesù è. Puoi pregare oggi in accordo con la volontà di Dio. E Dio vuole, Gesù vuole, è nella sua volontà che la sua Chiesa sia libera da ogni male. È nella sua volontà che la sua Chiesa sia sana nei pensieri, nelle emozioni e nel corpo. È nella sua volontà che le situazioni che ti stanno togliendo la gioia, togliendo la pace, vadano via nel nome di Gesù. È nella sua volontà. Amen, Chiesa? Quindi ci alziamo adesso, tutti quanti insieme. E io voglio chiederti di alzare le tue mani al cielo e di pensare, di visualizzare qual è questa forma di male sulla quale tu pregherai nell'autorità che Gesù ti dà. E tu oggi dirai: via, via, perché non mi appartiene più, via, perché questo non è nella volontà di Gesù. Qual è la forma di male contro la quale vuoi pregare, sulla quale vuoi dichiarare che il nome di Gesù è potente, che il nome di Gesù può cambiare? Alza le tue braccia, Chiesa, alza le tue mani, apri la tua bocca e prega nell'autorità che Gesù ti dà, nel nome di Gesù. Coraggio, Chiesa!